sunset. Run it, I've been taking my bets. Front it, I've been paying my debts. Love it, I've been stealing Corvettes. Stunning, woo, quiet unsaid. Run it, I've been fucked in the head. Front it, I ain't leaving my bed. Love it, the work's been killing me dead. Stun it, killing me, killing me, killing me. I just want to protect my energy. Ain't got no time for the frenemies. Eating my ass like a human centipede. Hold your horses, pick it up. What's better than two girls, two cups? What's better than a two-bug good night? What's better than fries and a chicken lunch? Hey guys, should I postmate Chuck E. Cheese? Wait, ain't no Chuck E. Cheese in Los Feliz. Wait, there ain't no steez if there ain't grease unless you ordered that sugarfish. 21 febbraio 2023, ore 19, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, sta per iniziare una nuova puntata di Likewise. A quiet unsaid, run it, I've been fucked in the head. Run it, I ain't leaving my bed. Love it, the work been killing me dead. Bang, bang. Killing me, killing me, killing me. Oh, oh, killing me, killing me, killing me. Oh, yeah. I don't got things to say. I'm so bored, I'ma pass away. Going off the deep end like Fouché. I'm cracked the surface, creme brulee. Don't. E ci sono anch'io, Donna Sonica in Pinclo, per questa 45esima puntata di Likewise. Ma no, guarda, non so gli anni miei. Remy Wolf con Quiet on Set, la nostra sigla di questa seconda stagione di Likewise. Benvenuti e bentrovati a tutte e a tutti. 0649 1750, se volete farci gli squillini, chiamarci, dirci qualcosa. Ci trovate qui fino alle 20 circa. Likewise @andarossa.info, Likewise _trx, il nostro canale Telegram per rimanere aggiornate. Perché stai ridendo? Che me ne vado, hai detto tutto. Non lo so, me ne vado. Dai, di qualcosa pure tu. Dico qualcosa pure io. Intanto, no, volevo salutare le organizzatrici, gli organizzatori e l'organizzatore di Banda Mutanda, che è stata questa 3 giorni che si è svolta a Torino, al Gabrio, workshop, incontri, insomma, racconti, confronti sui saperi tecnologici, in particolare legati alle radio, radio che esistono, radio che sono, diciamo, in costruzione, radio che vorrebbero essere, quindi insomma sogni radio, di radio, podcast, audio, sound system, DJing, c'era un po' di tutto. Siamo state, quindi, bene? Insomma, siamo state molto bene, è andata una delegazione nutrita, insomma, molto molto felice di andare della radio, e quindi insomma, tra cui anche noi, ci siamo divertite molto, volevo salutare, insomma. Eh sì, abbiamo anche improvvisato no, perché fatte tecnicamente perfette 2 dirette streaming dai workshop tenuti dalla radio, quindi le trovate, tra l'altro, il podcast penso sul sito della radio www.andarossa.info, dove trovate tutti i podcast di tutto quello che viene trasmessa Radio Onda Rossa, gli aggiornamenti dalle piazze, gli aggiornamenti dalle situazioni politiche che ci stanno più a cuore e che seguiamo, nonché i podcast di Likewise. 19.03, Likewise già comincia sotto di noi, la sento, ma la rimettiamo ovviamente dall'inizio. La band si chiama Jay Graves, il pezzo si intitola Valentine. Come close and know. un bel inizio scoppiettante con questa bella band. Loro si chiamano Jay Graves e il pezzo che abbiamo ascoltato si chiama Valentine, dall'album Fortress of Fun, che, come dicevi tu, è l'unica fortezza che ci potrebbe piacere, quella del divertimento. Esatto. Allora, 7 tracce, uscito a settembre del 2022. Loro sono un trio di Portland. E direi che dietro questo progetto c'è qualcosa di abbastanza interessante, anche un po' sperimentale, no? Perché è un po' legato sia alle canzoni che ai video. Ed è, c'è tipo un gioco a scatole cinesi, o comunque insomma scatole, e tu alla fine del video puoi scegliere, c'è una sorta di scelta tra andare da una parte o andare da un'altra e vedere un altro video che poi è collegato ad un altro pezzo del disco, penso sia il fan di qui sopra. Sì. E quindi via così puoi girare e vedere tutto, puoi ascoltare tutto il disco e vedere tutti i video. E ho trovato divertente, molto, molto carina come idea, quantomeno una cosa diversa. Dice, quindi non c'è una vera sequenza dei pezzi, ognuno può scegliere la sequenza che vuole. E quindi, a seconda di come li metti, in qualche modo l'album diventa un po' diverso, cambia senso. Questo progetto, questo trio post-punk che abbiamo ascoltato, ruota un po' intorno alla figura della chitarrista, nonché voce abbastanza importante, molto molto bella e dotata, di Jessa Graves. E sì, insomma, poi anche il racconto di come è venuto fuori questo album è abbastanza divertente, anche diciamo l'idea che anche persone con cui lavori da tanto tempo insieme poi scopri che hanno dei talenti, delle o che hanno imparato qualcosa nel frattempo che non sapevi, e quindi da lì insomma si creano nuovi progetti come questo. Quindi Fortress of Fun è la nostra prima segnalazione di quest'oggi. Se vogliamo segnalare il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, Valentine, è legata al fatto che è stata composta nel giorno di San Valentino del 2020, quando l'autrice nonché cantante di cui vi parlava prima Donna, Jessa Graves, ha interrotto una relazione non propriamente piacevole, lei l'ha definita lunga e tumultuosa, insomma non è stata una fine semplice, e ha poi riversato tutti i suoi pensieri e emozioni in questo singolo che abbiamo ascoltato prima. Te stavi già a correre, comunque siamo in orario 19:09. Io già sto sempre a correre, lo sai, non è una cosa temporanea. Prossimo pezzo della nostra scaletta. Loro si chiamano Jadu Art e il pezzo si intitola There Is No Door. Sì, c'è questo finale un po' così, un po' inaspettato. Loro sono Jad Heart dall'album. Tu lo devi dire. Che deve uscire, no, che è uscito a fine gennaio 2023. Da pochissimo. Di Realized, eh? Che è il loro terzo disco. Ma facciamo anche lezioni di inglese fra un po'. 12 tracce, esce per la WLFM Limited Records. Loro sono un duo di musica elettronica, come avete potuto sentire, di base a Londra, trasferitisi forse dopo il lockdown, durante il lockdown, non si capisce. Tanto in quel momento tutti hanno cambiato in qualche modo collocazione, o molti si sono chiusi da qualche parte. No, in realtà il nome di Realized che hanno scelto, scusate, per questo terzo album di questo duo che spazia un po' tra l'elettronica e la shoegaze, come appunto era più come piace a me, soprattutto come era soprattutto in questo pezzo che abbiamo ascoltato, e anche insomma un po' nella formazione. Sono due chitarre con una tastiera e due voci che si alternano negli stessi pezzi, oppure ognuno canta il pezzo che ha scritto, quindi insomma un'atmosfera molto intima anche. The Realized, che è il titolo dell'album, come stavamo dicendo, in realtà ha un significato anche molto importante per raccontare il progetto che hanno fatto uscire poco fa, e cioè appunto la parola significa quando si perde, sostanzialmente descrive quello stato mentale di quando si perde il contatto con la realtà, nel senso la realtà in qualche modo sembra tutta molto sfocata e le persone sembrano molto sfocate, e in qualche modo questa era la parola che hanno scelto per descrivere il loro stato mentale proprio durante il lockdown, durante appunto il Covid, e lo stato di depressione nel quale entrambi si sono ritrovati. Quindi insomma questo album racconta anche questo loro vissuto mentale, musicale e diciamo e compositivo, e che quindi entra tutto qua dentro. Sì, quindi ancora un disco che parla di salute mentale, e come ci sta capitando spesso in questi ultimi tempi, anche in questa stagione di Likewise, è una cosa che secondo me è molto positiva, perché condividere questo tipo di esperienze può aiutare tutte e tutti a venirne fuori, o comunque a vedere, a riconoscerle, e quindi averne in qualche modo forse anche meno paura ad affrontarle. Loro hanno detto che hanno scritto questo disco proprio come antidoto a un mondo sconcertante e spassionato, e che sembra essere accettato per così per com'è, ma nonostante questo è una celebrazione dell'umanità e di tutti i suoi fallimenti. E mi sembra comunque un messaggio alla fine positivo. Sì, noi cerchiamo sempre di sottolinearlo, vabbè, quando ci piace la musica, ovviamente, questo, quando si trattano questi temi, anche perché contribuisce, come dicevi prima, Pinclo, quando si parla di queste cose, contribuisce a diciamo a togliere questo stigma, questa patina, no, di vergogna, di solitudine, quando si vivono questi stati. Sono stati che viviamo tutti per motivi personali o per motivi collettivi, come nel loro caso, e quindi insomma quando ne parliamo, li condividiamo e creiamo anche delle cose, significa anche riuscire a sapere di non essere soli, insomma, in questo. Se ci può interessare, sono in questo momento in tour in America, tour che era stato annullato esattamente nel 2020 a seguito dei lockdown e della pandemia, e torneranno a suonare in Europa con diverse date in Inghilterra, e poi insomma gireranno, perché ho visto Germania, Olanda, Danimarca, Francia, quindi sono un po' in giro. Sì, per le persone fortunate che vivono nei posti dove ci sono anche dei live che ti interessano, sì, esatto, si potranno vedere, magari chissà, qualche festival estivo si avvicineranno anche da queste parti. E sì, sono una di quelle band insomma che certamente non fa soldi vendendo dischi, ma fa soldi insomma, o comunque si mantiene facendo lunghi tour. In ogni caso, se vi sono piaciuti e vi interessano, hanno fatto altri dischi. Il loro precedente si chiamava Hyper Romance del 2020, e l'anno scorso è uscito un EP che si chiama Freedom. Quindi cercateli e ascoltateli. E se siete in giro per l'Europa, magari fateci sapere che vi mandiamo come report di Likewise a fare la cronaca del concerto. 19:18, Likewise, onda, Radio Onda Rossa, pezzo numero 3 della scaletta di stasera, Livia Rita, questo è un nome facile perché è italiano, anche se lei non lo è, Expired Crystal. Livia Rita. È vero, perché era brevissimo. Era brevissimo. Un minuto e 55, 45 se non ricordo male. Expired Crystal era il pezzo che avete ascoltato, il pezzettino che avete ascoltato, piccolo piccolo. Vabbè, ma ne abbiamo una di sottofondo che ci fa compagnia, quindi la sentiremo. E che ci fa continuare a sentire queste sue, insomma, melodie belle, belle pese, cioè appunto questa alternare delle basi, dei beat elettronici molto intensi con in realtà delle parti vocali anche abbastanza melodiche che ti ricordano, dicevi, Bjork. Ma penso anche a chi stava ascoltando, cioè un po' vicino a quelle sonorità, soprattutto dei dischi, direi, vecchi di Bjork, da Homogenic, cioè roba appunto un po' datata, però sì, quella Bjork lì forse neanche, quella di oggi in realtà molto poco, essere sincera, però la Bjork forse di fine anni 90 un po' sì. Ma noi comunque l'abbiamo proposta secondo me perché è un prodotto interessante. Innanzitutto è autoprodotto il disco, è uscito a settembre di quest'anno, sono 11 tracce, è il suo primo album, quindi non abbiamo detto come si chiama, Fuga Futura. Fuga Futura. E lei secondo me è una personaggia, come diremmo in linguaggio femminista, che ci è sempre piaciuto tanto, molto interessante, una cantante appunto emergente, ma è una musicista, si definisce una strega alpina, un attivista per il clima, era una designer, coreografa, sempre il do it yourself, autarchia unica via, è una regista, artista visiva, non lo so, fa anche il caffè sicuro, lo fa anche molto bene. E sicuramente appunto i suoi progetti musicali sono comunque dei progetti un po' a 360 gradi, quindi insomma a cui si accompagnano delle immagini, a cui si accompagnano dei lavori visuali, quindi insomma ogni volta che esce, cioè sicuramente i video che accompagnano anche questo album sono interessanti. È forse anche questa che è la cosa che un po' ci fa ricordare tanto Bjork, perché sappiamo quanto Bjork ha lavorato sia su quella parte, diciamo, più fredda, o che qualcuno ha sempre pensato più fredda, che è l'elettronica, sia poi quanto quella connessione profonda con la sua terra, la sua isola, l'Islanda, cioè tutta la natura, lo sappiamo anche poi questo tema che poi ha approfondito ancora di più nei dischi successivi. Lei, Livia Rita, afferma che Fuga Futura è un luogo di guarigione e fantasia dove la natura si ribella e la magia abbonda, ed è carina questa cosa, dilla tu, delle no. Gangs of Witches. No, vai. No, dilla no, tu. No, te l'hai ripreparata, vai. No, dilla tu. No, non è vero, non l'ho preparata, dai, dilla tu. No, che in realtà, diciamo, a questo progetto si accompagna anche una, come si può dire, un lavoro che si chiama Futura Spellbook, che è, diciamo, un gioco di carte in realtà, che lavora appunto su con questi personaggi freak, strani, streghe, eccetera eccetera, insomma, che creano fondamentalmente un regno all'interno del quale ci si muove per questo gioco, quindi insomma anche questo fa parte un po' della sua come posso dire, creatività, che entra anche nella musica, secondo me, perché sì, c'è tutto questo misticismo un po' anche nel suo. Sì, io lì per lì ho pensato che era un mazzo di carte tipo tarocchi, ma immagino che diciamo l'immaginazione venga anche da là, però non lo sappiamo. Quindi se qualcuno ha le creature del futuro spellbook di Livia Rita, ce lo dicesse allo 064. No, da capo. 0649-1750, che è il numero per raggiungerci in diretta, oppure ci manda una bella lettera o magari anche delle immaginine, così insomma ci facciamo un'idea di quello che ha creato Livia Rita. Prossimo pezzo, torniamo su sonorità un po' più morbide, lei si chiama Bully e in questo caso il pezzo lo suona insieme a una nostra vecchia conoscenza che adoriamo, che si chiama Sock & Mummy. Il pezzo si intitola Lose You. Save. E questa era Bully con la collaborazione e la voce di Sock & Mammy per questo pezzo, che questo singolo è uscito da pochissimo, che si intitola Lose You. Bully è, diciamo, il progetto di questa artista americana che si chiama Alicia Bognanno, non so come si dica, perché Bognanno probabilmente diranno in America, perché la gne non ce l'hanno. Però ci avrà il bisnonno, trisnonno. Non chi lo so. Sappiamo, non ce ne frega niente neanche, sempre quello. Tutto sommato, chi se ne esatto. frega. E, insomma, una bella collaborazione con Sock & Mammy, che anche lei praticamente collabora con tutte le artiste, diciamo, che ci interessano e comunque fanno questo tipo di musica. Voi mettete Likewise, mettete Sock & Mammy, così trovate la puntata dove l'abbiamo messa. Perché potete fare anche questo su Radio Onda Rossa, incredibilmente, ma se mettete i tag, siccome noi in ogni, diciamo, descrizione della puntata mettiamo le artiste che abbiamo messo, secondo me la trovate, perché adesso non mi ricordo più quale puntata era, ma la trovate facilmente. Eh sì, insomma, in generale devo dire che Bully non è una musicista che ascolto tantissimo, è quel tipo, diciamo, di rock... di grunge, si potrebbe dire ancora, forse troppo morbido per i miei gusti, però questo singolo ci stava, secondo questo me. Questo singolo ci stava, certo che grunge, cioè lei praticamente si è laureata alla Middle Tennessee State University e poi è andata a fare uno stage da Steve Albini, quindi lo so. E poi hanno fatto anche una cover dei Nirvana, quindi deve essere una grande passione tutto quel mondo sonoro per lei, probabilmente c'è anche cresciuta in qualche modo, immagino. No, ma io non volevo criticarla, no. Che in generale questo tipo, che in realtà che si chiama anche una definizione, si chiama bubblegum grunge, che è appunto in realtà nasce anche questo, diciamo, nella seconda metà degli anni 90, ed era un po' quella parte del grunge, ma c'erano band anche molto note, che ne so, i Bush per esempio, che comunque avevano ammorbidito un po' alcune sonorità e quindi, insomma, venivano fuori dei pezzi un po' più dolci amari, si potrebbe dire, rispetto al grunge, quello un po' più, che ne so, mi vengono in mente Mudhoney per esempio. Vero, verissimo. Pubblicano per la Sub Pop, per restare in tema, e devo dire che anche il suo ultimo disco che ha all'attivo torna ancora alla questione della salute mentale in Sugar Egg, perché parla in questo disco, in quel disco parla del suo disturbo bipolare. Quindi ci piacciono molto queste artiste che non hanno più paura di dire come stanno. E tra l'altro, secondo me, effettivamente la salute mentale è un tema del presente e dovrebbe essere affrontato sempre di più e anche in qualche modo, che è una parola che non mi piace per niente, normalizzato, nel senso che, appunto, come dicevi prima, tutte o tutti nella vita potremmo passare dei periodi che hanno a che fare con la nostra salute mentale, che non deve essere per forza una cosa patologica, ma appunto sono momenti di stress che vanno... Sì, che senza banalizzare, esatto. Nel senso, ci sono ovviamente, no, ci sono, certo, livelli diversi, ci sono livelli diversi di salute mentale e di disturbi mentali, insomma, però chiaramente cominciamo a parlarne in un modo diverso. Anche appunto, in un modo diverso. Senza dover ricorrere a nessuna patologizzazione. Prossimo pezzo, oggi vi facciamo sentire delle robe bit interessante. Loro poi indovinate quanti anni hanno, perché è divertente da sapere. Quando l'ho scoperto non volevo crederci. Loro si chiamano Alt Black Era, il pezzo si intitola Obsession Solar. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Team. no game. I'ma take out of your island, running my mouth like a madman. We've been like Rizzo and JJ. Golden frames, dry land, fashion go sheet like a rock band. Running man, cause I came wrong far. We be like Tracy and Katya. È molto interessante questo progetto Alt Black Era, due sorelle, Nirobi e Chaya, che dicono di loro stesse: siamo fiere, siamo crude e siamo non convenzionali. Beh, sono giovani, sono molto giovani, stanno lavorando al loro EP di debutto che uscirà a settembre. Diciamo che il metal, il new metal e tutto quello che intorno non sono proprio le sonorità che mi sento addosso, ma... Ti vedo un po' a disagio, ti vedo. No, a disagio no, però non sono le sonorità che preferisco e penso che le ascoltatrici e ascoltatori di Likewise lo sappiano ormai a memoria. Poi tra l'altro in realtà loro fanno un lavoro di mix di generi abbastanza notevole, perché avete sentito, ci sono sonorità new metal, ci rappano sopra, quindi è più complesso di così. E la cosa interessante è che il rap, diciamo, che utilizzano per i loro pezzi, magari quello che stiamo sentendo sotto, dopo lo alziamo così si sente meglio, in realtà appunto è stato elaborato attraverso quello che poi che è un po' la linea di canto più tipica del metal e del new metal. Quindi insomma è molto interessante quello che su cui stanno lavorando. Non sono le prime, ma insomma. E diciamo che per una volta questo è il caso invece di un genitore che incoraggia le proprie figlie a seguire le proprie ispirazioni, perché loro dicono che cantavano insieme fino a quando erano bambine e durante il lockdown hanno cominciato a fare delle cover e a pubblicarle su YouTube e insomma la madre gli ha detto: ma perché non imparate il più possibile musica dal mondo e fate quello che vi piace, pubblicate i vostri brani, così magari potrebbe diventare anche insomma un pezzo della vostra vita. E così hanno fatto e mi sembra che sta funzionando. Adesso a settembre vedremo che cosa ci riserverà l'EP. Note cose città, già dall'altra parte del vetro, perché questo è il martedì, siete su Radio Onda Rossa, sono gli 87.9, sono le 19.35, noi siamo in diretta come ogni martedì, ma siamo quasi puntuali con la nostra scaletta, comunque perché siamo al pezzo numero 6, quindi ci stiamo, giuste. Torniamo a sonorità che ti sono un po' più vicine, esatto. Vero? Infatti, ci voleva. Lei si chiama Kay Young, il pezzo si intitola The Way You Look At Me. Feel so good, feeling like a sweet thing. Hitting with a 1-2, go hard when the beat breaks. I came to dance, came for a good time. Ain't nothing gonna get in my way. I suggest you keep up. Hey you, my kind of groove. Get close, yeah. No, don't be scared, I won't fight. Can you keep up for the whole night? I don't think I'll slow down. Slow down. I came to dance, came for a good time. Ain't nothing gonna get in my way. You hold on. I can see that you like me. And really I like this. Don't get too excited. Let's cause a scene. I like the way, I like the way you look at me. I like the way, I like the way you look at me. Running, running around on high. Running, ooh, running, running around on high. Running, ooh. Damn, how you done know? Which way am I go next? Yeah. You bad with the footwork. Yeah. So smooth on your two-step. I came to dance, came for a good time. Ain't nothing gonna get in my way. Hey, just you keep up. Hey, you, my kind of thing. Bad, you lead the way, I follow. You're doing good, I got you. Don't think I'll slow down. I came to dance, came for a good time. Ain't nothing gonna get in my way. Hey, I suggest you hold on. I can see that you like me. And really, I like this. Don't get too excited. Let's cause a scene. Questa era la voce di Kay Young con il pezzo, mi stavi oscurando, The Way You Look At Me, uscito pochi giorni fa in realtà, ed è appunto uno del un singolo, insomma, che preannuncia il suo prossimo EP dopo, insomma, un po' di tempo che non si faceva sentire questa artista britannica. Alla fine ci siamo conosciuti, si chiama l'EP. Dovrebbe, dai. Si dovrebbe chiamare alla fine ci siamo conosciute. Non lo sapevo questa cosa, te l'ha detto a te. L'ha detto a me personalmente. Questa comunque era una canzone invece sull'innamoramento, il modo in cui tu mi guardi. Lei è un'artista rapper, produttrice londinese, anche lei fa tutto dall'inizio alla fine. Scrittura, produzione delle canzoni, come abbiamo visto si muove tra rappando, tra questo jazz, soul, funk. Questi sì, sono le sonorità che mi piacciono, è vero, lo faccio coming out, ma penso che ormai era noto ai più. No, basta, l'hai già fatto sto coming out, non è che lo fai ogni volta. Sì, il suo precedente lavoro risale al 2021, da un paio d'anni fa, ed era un EP che si intitolava This Here Feels Good. Quindi, insomma, se volete recuperare qualcosa dei suoi lavori precedenti, potete trovarlo in giro. E niente, insomma, ha in realtà una primavera molto impegnata, perché suonerà moltissimo in giro. Te l'ha detto a te giro. Invece questo. Mi ha chiamato per dirmi questo. Esatto. E insomma, no, sarà una headliner a un festival jazz molto interessante che si tiene in Inghilterra, che si chiama Brick Lane Jazz Festival. E quindi, insomma, sicuramente significa che in qualche modo c'è molta attenzione e molto interesse per quello che sta per produrre. E che sicuramente tornerà, come capita spesso, sulle onde di Radio Onda Rossa Likewise, quando uscirà l'EP, così sentiremo un'altra canzone. Se non la chiamiamo, diciamo di lasciar perdere. No, non è vero, dai. Comunque l'EP uscirà, We Meet At Last, quindi penso che fosse quella la traduzione. Mi sto impegnando con l'inglese, non sembra, ma ci sto provando. Pezzo numero 7 della scaletta di stasera. State ascoltando Pinklo e Donna Sonica, che vi tengono compagnia fino alle 20 con Likewise, Living Like I Know. Genevieve Artadi. Che Donna, se non dico il nome non me la manda. It's not what it looks like to you. You don't see what I can see. I can see through you. I can see through you. I've learned I will not be burned. Let myself be burned. Feels like that you don't know about the parts missing within you, missing within you. Can I have what I can't have? Hell yeah. But it's in another space. Gotta get moving. Gotta get moving. Living like I'm not gonna die. Living like I'm not gonna, not gonna die. Living like the future is a guess. Living like I'm smart and smart and smart. Living like I'm gonna disappear. Living like I'm actually, actually here. Like I'm not gonna die. Like I'm not gonna die, die. Living like I'm not gonna die. Living like I'm not gonna, not gonna die. Living like the future is a guess. Living like I'm smart and smart and smart. Living like I'm gonna disappear. Living like I'm actually, actually here. Like I'm not gonna die. Like I'm not gonna die, die. Living like I'm not gonna die. Living like I know I'm gonna die. Lei si chiama Genevieve Art. Artadi, giusto? Artadi. Artadi. Artadi, basata cantautrice, producer e molte altre cose, di base a Los Angeles, con un album in uscita, mi sembra. Un album in uscita, Forever Forever, il 17 marzo uscirà questo che sarà il suo terzo disco. Lei ha dichiarato che questo album è stato composto principalmente, molti dei pezzi sono stati composti per la big band, e che quindi in quel periodo lei aveva sia un rapporto con la Norrbotten big band svedese, che è una band anche abbastanza importante, che è stata nominata ai Grammy, e si è esibita con loro molte volte. Quindi c'è un'architettura sicuramente dei pezzi, degli arrangiamenti, molto complessa. Come avete visto, questo suono spazia tantissimo tra un po' gli Stereolab, come si sente un po' quella sonorità pop, molto avant pop, avant rock, cioè avant, cioè celebrale della musica. E è stato registrato in Messico, ed è il suo primo album registrato in uno studio, perché i precedenti invece li aveva registrati a casa, perché noi lo sappiamo, se non abbiamo loro che fanno tutto da sole a casa loro, non siamo felici. Però dice che in ogni caso stavano in Messico in uno studio molto molto bello, che è stata un'esperienza positiva, al di là, molto più di quello che lei si aspettava, perché poi hanno suonato ovviamente insieme, sono rimasti lì tutti insieme a dormire, quindi si è creato quei momenti magici che fanno bene ai dischi quando si stanno per registrare. Quindi lo aspettiamo con molto molto interesse, perché cioè, è caleidoscopico, c'è il jazz, c'è un po' di rock, c'è la pop, e mi sembra tutto anche abbastanza equilibrato, sia dal singolo che abbiamo ascoltato che da quello che abbiamo di sottofondo. Quindi ci sembrava una bella proposta da farvi sentire questa settimana. Devo dire che è molto bello questo pezzo, bravo Pinkola, grazie che l'hai scelto te. L'album Forever Forever, che è un nome facile e un titolo facile da ricordarsi, uscirà il 17 marzo per la Brain Feeder Records. Prossimo pezzo? Sì, niente ma dubbi, Nothing But Trouble dei Poor Boys. E abbiamo fatto un saltino di nuovo dalle parti dell'Oregon in quel di Portland con la band Pool Boys. Questo pezzo è tratto dall'album Obviously Doctor e si intitolava Nothing But Trouble. Album, non sappiamo, sì, è un EP, hai ragione, scusa, è un EP, lo sai che abbiamo questo, ormai no. Passami il termine, lo sai, per me quando metti tre pezzi insieme fanno un album. No, non è così, non è vero, è un EP, è un EP, è un EP e gli album magari arriveranno. Loro si sono formate nel 2016, sono Emma Rose Brown, Caroline Jackson, Annie Dillon e Monica Metzler. E il desiderio viene insomma dalla chitarrista e cantautrice che è Emma Rose. Detto, si sono formate nel 2016, quindi se non ricordo male dopo le elezioni di Trump alla presidenza, e dice: era un periodo in cui stavo pensando molto al femminismo, mi stavo unendo ad altre donne, pensavo ovviamente anche alla musica, alla creatività e a ciò che l'arte può contribuire al nella società, e di fronte a un regime politico con cui nessuno di noi era d'accordo, e ha aggiunto che all'epoca aveva fatto parte di una band solo con un'altra donna e quindi è nato il desiderio di, diciamo, creare un ambiente più collettivo, di una collaborazione creativa con altre donne. Da qui è venuto fuori questa band che ha tirato fuori questo EP e probabilmente starà lavorando, immaginiamo, ad altro materiale, visto che questo è uscito a giugno dell'anno scorso. E lo abbiamo recuperato per voi. Qui siamo a Likewise, sono le 19.53, yes. Quindi insomma ci avviciniamo alla fine di questa 45esima puntata. Il prossimo pezzo, lei si chiama Jessica Hoop e abbiamo scelto Hatred as a Mother. When you find good people, a sing for the river. When you find good people, a need for the giver. When you find good people, a wound with the trigger, an epic for the gun. When you find good people, a victim for the pen. When you find good people, a villain for the hymn. When you find good people, there's hands to make good men out of our wayward sons. Come, join the revolutionary love. There's ground for every shooter. Give the big bad actors the tongue in my eyes to the pebble in my brow. I watch the big bad actors and suspend disbelief. I watch them burn and turn from children into thieves. I keep a watch and I wonder how my very own tongue has made the bankrupt world. Mother, hatred has a mother, naming the other. Nature loves a mirror, othered by others. Mirroring the mirror, give to your mirror revolutionary love. We fall and break the earth, so the deal was written and contracted at birth. And if I'm to be worthy of mending any hurt, I must end. I was first. Say, man, where do you come from? What neighborhood you grow up in? The hateful way that was taught you can be unlearned too. There is salmon in the river and a line for you. Come, join the revolutionary mother to mother. Hatred has a mother, naming the other. Nature loves a mirror, othered by others. Mirroring the mirror, give to your mirror. Mother to mother. Hatred has a mother, naming the other. Nature loves a mirror, othered by others. Mirroring the mirror, give to your mirror. Ooh, listen up. Ooh, give your mirror people. E questa è la voce e la chitarra di Jessica Hoop, Hatred as a Mother, tratto dall'album Order of Romance, che era uscito l'anno scorso. Devo dire che questa settimana ci siamo un po' dedicate a recuperare cose che avevamo messo in scaletta un po' di tempo fa e poi si erano perse nelle nuove uscite. In realtà questo album, che appunto usciva, come dicevamo, nella seconda metà dell'anno scorso, era un lavoro di Jessica Hoop, è un lavoro di Jessica Hoop, che il suo quinto album in realtà, insomma, che veniva dopo un po' di anni di silenzio, tra virgolette, musicale, di produzione, ecco. Che dire, è un personaggio interessante, tra l'altro, insomma, per dire qualcosa di lei, vabbè, è in giro da molti anni, ci sono molti, come avete sentito, al suo quinto album, ci sono molte produzioni, quindi se vi piace il suo modo di affrontare la musica, di raccontare le storie, potete recuperare un po' di roba in giro, ed è tornata, dopo aver vissuto un po' di anni in Europa, è tornata nella sua California nativa, anche per registrare questo stesso album. Sono le 19.58, quindi direi che siamo in chiusura di Likewise. Finiamo la scaletta di questa settimana con Anything Animal Sunbathe. la voce di Maggie Morris che suona con il nome di Sunbathe, il pezzo si intitolava Anything Anymore ed è un singolo uscito da poco, appunto, che speriamo preluda un nuovo album. Sunbathe, appunto, come dicevo, è il progetto che ruota intorno alla chitarrista, cantante e compositrice Maggie Morris, un misto tra dream pop e garage rock un po' caratterizza tutta la produzione di Maggie Morris. Prima si esibiva da sola e poi, appunto, intorno a lei si è formata questa band con cui praticamente gira intorno al mondo suonando la sua musica. Che ascoltatrici non lo sanno che musica piace a te. Amy Wolf ci dice che sono le 20.04, che quindi questa puntata di martedì 21 febbraio 2023 di Likewise sta per giungere a fine. Speriamo di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto ascoltare cose che vi sono piaciute, interessate, o anche che non vi sono piaciute, perché capita. Non lasciamo la radio in mano a degli sconosciuti, ma no, quello è sicuro. In mano degli sconosciuti, ma sta per iniziare Note e Cose Città alle 20.15 e poi ci sarà Semilla alle 21.30 e poi ci sarà Morfire, penso, alle 23. Passate una buona settimana, è stato l'ascolto di Radio Onda Rossa, sostenetela. Likewise finisce qui, vi diamo appuntamento al prossimo martedì sempre alle ore 19. Ciao.